con Monica Maurer del Cineforum Palestina per parlare del film Broken di Mohammed Al-Attar, che sarà proiettato a Roma all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico martedì 9 luglio 2019. Monica, ben trovata. Ben trovata, io sono è sempre un piacere parlare con te. Senti, sarà una proiezione alla presenza del regista, se non sbaglio. Sì, certo, ma questo sforzo straordinario che abbiamo fatto, perché tu sai che il mio cineforum, o il nostro cineforum, che ormai è nel settimo anno, non è low budget, ma no budget, e quindi non ho mai avuto idea, ma questa volta era proprio necessario. Perché il 9 luglio è il giorno, saranno 15 anni che la Corte di Giustizia Internazionale all'Aia ha fatto un verdetto dichiarando il muro dell'apartheid, come noi lo chiamiamo, in Palestina, illegale, illegale secondo tutti i standard della legislazione internazionale, perché è costruito su terra palestinese, cioè su terra occupata nel 67, e come si sa, l'occupazione permanente di una conquista fatta con la guerra è contro la Convenzione di Ginevra, dell'Aia e appunto tutte le leggi internazionali. Allora, come in 15 anni non solo non è stato applicato, implementato, anche per assenza della cosiddetta comunità internazionale che non si è mai investito per far implementare la legge internazionale nel confronto di Israele, il muro non solo non è stato smantellato come dovrebbe essere stato, ma anzi è cresciuto. Oggi sono 700 chilometri di muro, è il doppio dell'altezza del muro di Berlino. Allora, in tutto il mondo si parla dei muri, prima di tutto quello in Messico, quello che vuole costruire o sta costruendo Trump, che certamente è anche questa una violazione dei fondamentali diritti umanitari della libera circolazione, ma soprattutto un strumento per la continua annessione di terra palestinese, che la richiesta che per 20-30 anni è stata quella due popoli, due stati, praticamente è svanita davanti alla realtà. Allora, per noi sembra un momento in cui dei muri bisogna parlare, ma bisogna parlare anche, prima di tutto, del più violento, più sciagurato, che è quello, il muro di apartheid in Palestina. E quindi per questo abbiamo invitato Mohammed Al-Attar, che è uno dei importanti documentaristi palestinesi che molti forse conoscono perché ha fatto altri due film molto molto forte e importante, visto largamente in molti paesi del mondo. Il primo è The Iron Wall, cioè il muro di ferro sui insediamenti, e l'altro è Jerusalem, The East Side Story, che forse ricordi, qualcuno ricorda che il 15 maggio, cioè il giorno della Nakba, della catastrofe palestinese, abbiamo fatto un fo qui sempre qui al Cineforum all'Amod, abbiamo fatto un focus su Gerusalemme, che sta per essere strangolato dai insediamenti e della distruzione di case e annessione di case della popolazione palestinese di Gerusalemme Est. Quindi non abbiamo solo organizzato questa proiezione qui, ma abbiamo chiesto a altre città, e infatti Al-Attar col suo film farà un tour dopo Roma il 9, l'11 a Napoli, al Filangieri, il 12 a Modena e il 14 a Torino. Monica, come è strutturato il film? Diciamo due dimensioni. Una è quella di dimostrare, documentare in quanto questo muro incide sulla vita quotidiana della popolazione della Palestina occupata. Cioè che non c'è momento nella vita personale e anche del popolo intero che non sia condizionato dall'occupazione, il che significa il furto della terra, delle piantagioni di olive, le distruzioni delle case, la punizione collettiva. Dall'altro lato invece, e questo è il merito di questo film, è riuscito a raggiungere una decina dei giudici della Corte Internazionale di Giustizia che spiegano ognuno dal suo punto di vista, che chiaramente non sono unisono, ma tutti convergono nel giudizio che poi la Corte infatti ha dato, che questo muro è illegale perché costruito sulla terra palestinese. Ci dai tutti i riferimenti web per la programmazione del Cineforum? www.amot.it e poi c'è anche il Cineforum Palestina, che abbiamo una pagina Facebook. Si consiglia di magari mandare una mail o chiamare al numero di eventi Amot, perché c'è l'entrata libera fino all'esaurimento posti. Okay. Quindi si può telefonare a 06 573 05 447. Allora ricordiamo la proiezione, incontro con l'autore, martedì 9 luglio 2019 del film Broken di Mohamed Al-Attar a Roma, all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Un saluto e un ringraziamento a Monica Maurer del Cineforum Palestina. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Ecco, ti ringrazio. Come noi siamo visionari come te, abbiamo sempre speranza che un giorno la giustizia trionferà. Un abbraccio, Monica. Ciao, ciao Federico.